Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi, grazie per essere in nostra compagnia. Andiamo subito a sentire i temi del giorno. Abbiamo Carmelo Lauricelli in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione. Sommario. Muoviti per piacere al tuo cuore, quando l'ufficio fa la differenza. Emofilia, conoscila anche tu. Vi voglio con me se giocate a calcetto, ma vi voglio anche se giocate a tennis, o sciate, correte, camminate, nuotate. Vi voglio tutti, insomma, la ragione è semplice: ho a cuore il vostro cuore. Oggi impariamo a scegliere l'attività fisica che lo mantiene sano, ma anche quella che lo rimette in forma se ha avuto qualche incidente di percorso, piccola defaillance. Quindi una puntata da giocare a tutto cuore con un allenatore d'eccezione, il nostro dottor Franco Confalonieri, medico sportivo responsabile del centro sportivo DDS di Settimo Milanese, che è qui in studio con me. Buongiorno. Buongiorno, ben ritrovati tutti. Abbiamo in linea un grande esperto che ci racconterà e ci convincerà, speriamo, a muoverci per il bene del nostro cuore. Il professor Fabio Magrini, direttore della medicina cardiovascolare all'Università di Milano, Ospedale Policlinico. Professore, bentornato e grazie. Grazie a voi, buongiorno. Dottor Confalonieri, è vero che l'importante è muoversi, ma forse è bene fare una distinzione, giusto per chiarirci un po' le idee. I nostri ascoltatori, intanto, se vogliono farlo, possono mettersi in contatto con il nostro numero verde 800 24 00 24, oppure scriverci i messaggi al 349 238 6666. Dottor Confalonieri, credo, me lo dica lei, che sia necessario dividere i tipi di attività fisica. Metterei l'esercizio fisico dinamico in un gruppo e l'esercizio fisico statico in un altro. Questa differenza ci può aiutare? Sì, direi che una delle due differenze fondamentali, nel senso che in linea di massima l'esercizio fisico dinamico, l'esercizio fisico di resistenza, l'esercizio fisico ripetitivo, si pensi alla corsa, al ciclismo, al nuoto, alla voga, allo sci di fondo, tutte queste attività sono le più indicate per il nuoto, per il cuore, proprio perché ne aiutano uno sviluppo, una crescita e il mantenimento di una forma ottimale, mentre gli esercizi di tipo statico, gli esercizi di forza, si pensi per esempio classicamente al sollevare pesi in palestra, sì, e quindi al bodybuilding, determinano un adattamento del cuore che è meno favorevole dal punto di vista della salute in linea generale, una modalità di accrescimento diversa e anche un condizionamento in termini di pressione e quant'altro meno favorevole. Poi l'altra grande distinzione ovviamente è quella relativa all'intensità dello sforzo, perché uno sforzo può essere più o meno utile al nostro cuore in funzione del nostro livello di allenamento, ma anche in funzione dell'intensità dello sforzo stesso. Quindi consideriamo anche queste variabili. Ma professor Magrini, voi medici e i cardiologi in particolare ci dite sempre che è necessario fare attività fisica, ma ci vuole dare tre buone ragioni per convincerci, per spiegarci perché in questo caso il cuore ha da avvantaggiarsene? Allora, sì, direi che i medici, i cardiologi in particolare, un po' di tutto il mondo, si sono messi d'accordo su una strategia che è condivisa. Uno, prevenire i malanni del cuore e della circolazione. Nel primo punto, in tutti i programmi di prevenzione, che sono quelli che ci piacciono di più, cioè cercatevi un medico con cui andare d'accordo, se occorre prendete le medicine, eccetera, eccetera, ma soprattutto imparate fin da piccoli ad avere stili di vita sani. Al primissimo punto degli stili di vita sani c'è l'esercizio fisico, che sia fatto con continuità, possibilmente fin da bambini, e l'ideale è associarlo al divertimento, cioè capire qual è lo sport che mi dà anche piacere, e questa è la garanzia che io lo faccio appena posso. Quindi questa è la prima ragione: per prevenire occorre fare esercizio, i medici sono d'accordo, e in Italia noi abbiamo la sensazione che i cittadini non ci obbediscano tanto, perché noi tutti gli anni, da 7-8 anni, facciamo dei test in cima al Duomo per vedere com'è la frequenza del battito cardiaco di chi sale su, e tutti gli anni vediamo che gli italiani aumentano il loro grado di allenamento, che si valuta da quanti battiti io devo usare per fare le scale. Ma gli stranieri sono sempre più allenati, quindi io sono contento di poterlo dire alla radio: cerchiamo di allenarci di più, possibilmente scegliendo uno sport o un'attività fisica che ci faccia piacere. Il cuore, voi sapete, ha un freno e un acceleratore che sono dei nervi che decidono a quanti battiti noi dobbiamo andare quando stiamo a riposo, quando dormiamo, quando facciamo uno sforzo. L'esercizio fisico fa bene perché influenza il rapporto che c'è tra il nervo che accelera e quello che frena, facendo battere il cuore un po' più lentamente, e quindi poi abbiamo molti più battiti di riserva quando corre. La seconda o terza buona ragione è che facendo sport anche le arterie fanno ginnastica, quindi si allargano e si stringono in vari distretti del corpo, e questo è un'ottima politica per farle funzionare bene per 100 anni. Magnifico, devo dire che è stato convincente, e poi ci ha toccato un po' sul nostro lato della competizione, insomma cerchiamo di battere, no? Gli stranieri che sembrano sempre più allenati di noi, in lo sport è anche competizione, proviamo sì, diciamo anche questo. Che finché la scuola ci diseducherà alla pratica sportiva sarà difficile battere gli stranieri, comunque dai. Dato questo inciso, ho sottolineato una cosa fondamentale, professor Magrini, cioè quando parliamo di cuore dobbiamo ricordarci che di fatto parliamo sempre di cuore e di vasi, quindi gli effetti benefici sono sia sul cuore inteso come muscolo, sia su tutto il sistema circolatorio, quindi sulle arterie e sulle vene, e questo direi che è un aspetto proprio fondamentale. Allora, io vorrei chiedervi però di dirci quali informazioni di noi e del nostro cuore avete bisogno per aiutarci a orientarci all'attività giusta. Allora, ve le sottopongo alcune. Ad esempio, professor Magrini, le interessa sapere se siamo ipertesi? Sì. Posso fare un commento velocissimo? Certo. Allora, direi oramai in Italia c'è un ottimo, come dire, controllo fisico di chi si accinge ad andare in palestra o addirittura di chi si accinge a fare attività agonistica. Per avere il via libera è indispensabile avere un controllo anche molto semplice che può fare il proprio medico o un cardiologo, che consiste nel raccogliere rapidamente la storia del paziente, sentire se ci sono disturbi o no, visitarlo, che vuol dire sentire che rumore fa il cuore e misurare la pressione, e fare un elettrocardiogramma, che è un esame semplicissimo che si fa in pochi momenti. Con queste 3 o 4 informazioni si può dare il via libera e si può anche, come dire, orientare il tipo di esercizio, perché sono belli gli esercizi di squadra, perché i bambini in particolare si divertono, però io so che c'è qualcuno che dice: io preferisco che ne so, mettermi davanti a un disco e ballare da solo, ma bisogna sudare un po'. Sì. E può essere che il medico aiuti cittadino a trovare la soluzione tenendo conto dei suoi tempi, dei suoi impegni, che sono quelli che interferiscono di più con la possibilità di fare esercizio, insomma. Arrivano già numerosi messaggi al 349-238-6666 che vi leggerò sicuramente nel corso della trasmissione. Volevo chiedere al dottor Confalonieri se siamo sovrappeso, dobbiamo dirlo? Dobbiamo oggi dirlo, naturalmente, perché il medico dirlo, se ne accorge. Diciamo che la persona in sovrappeso è una persona particolarmente beneficiata, però un pochettino più a rischio, quindi deve fare le cose con un po' più di gradualità. Se il nostro cuore ogni tanto rotola, sobbalzo, salta in gola, assolutamente si dice? Va detto, perché le aritmie sono uno dei fattori di rischio più importanti che possono condizionare la scelta se fare o no sport e quale sport fare. Se siamo sopra i 50, l'età fa la differenza oppure... Relativamente, donne e uomini? Non vi è differenza di fatto. Se abbiamo avuto un infarto, questo sì che dobbiamo dirlo, vero professor Magrini? Quindi invitiamo i nostri ascoltatori a raccontarci se hanno avuto problemi di cuore. Sì, guardi, il terzo punto della strategia dei medici, cioè prevenzione dei danni d'organo, poi dopo limitazione in fase acuta, ma non ne parliamo oggi. Il terzo punto è la riabilitazione. Allora, nel secolo scorso si diceva: ma guarda, stai fermo, stai tranquillo per un poco, dopo un infarto stiamo a vedere che cosa succede. Con gli anni si è capito che l'esercizio è equiparabile ad una medicina, e nella riabilitazione dopo un infarto o dopo anche un intervento cardiovascolare un po' importante, sia chirurgico che medico, tutte le riabilitazioni del mondo fanno fare esercizio muscolare, ovviamente controllato, monitorando, cioè controllando il battito del cuore, la pressione, eccetera, e viene considerata una vera medicina. Si è poi scoperto, se posso aggiungere una cosa, che la ragione per cui l'esercizio ha un effetto protettivo e riparativo è forse legata alla vicenda delle staminali, sì. Poi magari torniamo più tardi se vuole, ma le staminali, che tutti sanno, sono quelle celluline che si sono scoperte da poco, che possono aggiustare dei pezzi rotti, diciamo, sì. Vengono stimolate dall'esercizio fisico e quindi forse è possibile non solo usarle in riabilitazione, ma spiegarci come mai nella prevenzione l'esercizio funziona, perché stimola questi precursori delle cellule che costruiscono i rivestimenti interni delle arterie, che si chiamano endoteli, ad aggiustare gli endoteli, aggiustare rapidamente gli endoteli che eventualmente si siano rotti. Quindi esercizio fisico da coach a farmaco naturale. 800 24 0024 la domanda di oggi, dottor Confalonieri. Due domande rapidissime. La prima, fate un test semplicissimo, sembra banale ma molti non lo fanno. Provate a controllare la vostra frequenza cardiaca a riposo in questo momento. È un indice della riserva che avete quando il vostro cuore sarà sollecitato, così come diceva giustamente il professor Magrini, e poi magari ce lo comunicate tramite SMS e facciamo qualche considerazione, una piccola indagine statistica. La seconda, avete paura a cominciare a fare sport perché non vi fidate tanto del vostro cuore, lo sentite non affidabile. Ecco, vorrei che ci raccontaste le vostre paure, magari vi aiutiamo a cominciare e a instaurare un rapporto migliore con questo muscoletto. 800 24 0024 Una mela al giorno. Mi state seguendo dall'ufficio o anche se non siete fisicamente lì, lavorate in ufficio? Bene, a me piacerebbe sapere se siete soddisfatti del vostro luogo di lavoro, inteso proprio come spazio fisico, se ci state bene, se vi sembra di essere messi nelle condizioni di dare il meglio, di essere performanti, produttivi. Sarebbe poi anche interessante capire se avete la percezione di che cosa vi aiuta e di che cosa invece nel vostro luogo di lavoro vi ostacola. Potremmo approfondire il tema in una puntata, potrebbe essere un'idea. Però intanto oggi proviamo a fare una riflessione a voce alta, prendendo spunto dai risultati di tre ricerche che verranno presentate oggi in occasione di Ufficio Fabbrica Creativa The Italian Way, un appuntamento molto atteso dagli addetti ai lavori e non, che in questi giorni, come sapete, si trovano a Milano in occasione del Salone del Mobile. In linea con noi abbiamo il professor Enrico Cietta, responsabile dell'area studi di Diomedea, che ha coordinato la ricerca di Diomedea per Assufficio ed è coordinatore scientifico del progetto Ufficio Fabbrica Creativa. Professore, buongiorno. Buongiorno. Professor Cietta, molti di noi, è inutile dirlo, passano più ore in ufficio che a casa, ma stando ai risultati delle ricerche sembra che poco si faccia per progettare e rendere questo luogo lavorativamente efficace, cioè proprio in grado di assicurare a chi ci sta dentro, a chi ci lavora, una serie di condizioni, ma anche immagino di attenzioni che proprio lo mettano in grado di dare il meglio di sé. È proprio così, quando un'azienda progetta la propria fabbrica lo fa con grandissima attenzione, gli spazi sono progettati per il processo produttivo che si deve svolgere al suo interno, il rapporto di comunicazione verso l'esterno è guardato con grande attenzione, la logistica deve essere pensata con grande attenzione. Il motivo è che l'azienda sa che qualche errore di progettazione può poi rivelarsi essere una fonte di costi nel futuro molto importante. Non si può dire lo stesso per l'ufficio, spesso l'ufficio è pensato semplicemente un luogo in cui si accumulano scrivanie e in realtà noi siamo passati dalla progettazione dello spazio ufficio alla Fantozzi, nel quale la dimensione dello spazio, la dimensione della scrivania, addirittura l'altezza della pianta che sta all'interno dello spazio è in relazione ed è proporzionale alla posizione gerarchica di quella persona all'interno dell'organizzazione. Siamo passati da questo estremo a un estremo esattamente opposto, all'open space, space, in cui l'amministratore delegato lavora fianco a fianco dell'impiegato, indipendentemente dalle esigenze di lavoro che hanno ciascuno dei due. Ecco, queste due progettazioni hanno un unico comune denominatore, rispondono magari alle esigenze dell'azienda, ma certamente non guardano le esigenze del lavoratore, e questo è un vizio, diciamo, che noi abbiamo anche proprio nel pensare lo spazio ufficio. Professor Cietta, ma dalle ricerche è chiaro, è evidente, che chi investe ci guadagna, è così? È assolutamente così. Noi abbiamo guardato a un campione di 100 aziende italiane che hanno investito nello spazio negli ultimi 5 anni. Ebbene, la loro performance economica è nettamente migliore alle imprese dell'universo. Questo significa che c'è una relazione statistica tra chi investe nello spazio e la performance economica. E queste imprese non sono necessariamente imprese grandi, ci sono imprese piccole che hanno anche meno di 10 milioni di euro di fatturato, imprese che lavorano in ogni settore, non necessariamente sono quindi imprese della new economy, come si usa dire. Questo significa che investire nello spazio è certamente nell'interesse del benessere psicofisico del lavoratore, ma è anche nell'interesse dell'impresa. Professor Cietta, lasciamoci con alcune indicazioni per l'ufficio del futuro, speriamo prossimo. Possiamo tirare fuori tre elementi. L'ufficio non è un lusso. Da una ricerca fatta sui lavoratori abbiamo derivato che il 90% dei lavoratori intervistati considerano le spese nell'ufficio non uno spreco di denaro. Questo ci dice che anche in un momento di crisi fare un ufficio bello e confortevole non è uno spreco di denaro, ma è un'esigenza per l'impresa, per il lavoratore, e quindi alla fine è qualcosa che facilita il business. Quindi diciamo così, un ufficio ben fatto è un diritto per tutti e non soltanto per alcuni. L'ultimo elemento è, attenzione, parliamo spesso di telelavoro, di lavoro da casa, però l'ufficio non è soltanto uno spazio fisico, è anche uno spazio identitario. Noi ci riconosciamo per l'abito che indossiamo, per la casa che abitiamo, ma anche per l'ufficio nel quale lavoriamo, e questo è un elemento sul quale occorre riflettere. Prima di destrutturare il vecchio modo di lavorare in ufficio, dobbiamo costruirne un altro, e oggi ancora non l'abbiamo trovato. Professor Cietta, grazie per essere stato con noi, buon grazie. Lavoro, buon grazie ufficio. A grazie. Grazie a voi, arrivederci. Pronto soccorso. E noi torniamo a parlare del nostro cuore. Il dottor Confalonieri ha chiesto: diteci, no, quanto batte, no, il vostro cuore, la frequenza. E sono arrivati tantissimi messaggi, devo dire tutti numeri uno diverso dall'altro, quasi da giocare all'otto. 68 al minuto, Marzio. Sì, siamo assolutamente nella media, tra i 65 e i 70 battiti al minuto, siamo esattamente sui valori medi di un cuore sano, normale. Alberto, 45 anni, 42 battiti a riposo, com'è? Ci scrive. È probabilmente un cuore molto allenato, naturalmente un cuore capace di pompare tanto sangue ad ogni contrazione, e comunque un cuore molto allenato. Mia figlia, 15 anni, a riposo, 39 battiti, va bene o il suo cuoricino è troppo lento? Ci scrive una mamma. Ma in linea di massima è un battito molto basso, non ci sono indicazioni per cui dire che ci sia una patologia, potrebbe essere un cuore particolarmente predisposto all'attività di resistenza. 58 battiti al minuto, Paolo da Bergamo. Molto bene, un cuore allenato. Voilà, siamo tornati. Professor Magrini, ma la frequenza è correlata alle caratteristiche del cuore e soprattutto l'attività fisica, riesce a modificarle? Allora, la frequenza dipende innanzitutto dall'età. Lei sa, o tutti lo sanno, che alla nascita il nostro cuore batte tra i 140 e i 160. A 18 anni, quando abbiamo finito di crescere, il cuore è maturato. Quando uno sta a riposo in posizione orizzontale, senza interazioni termiche o emotive con l'ambiente, qualsiasi valore tra 60 e 80 va bene. Ecco. Se si è sotto, come è capitato in qualche telefonata, può essere un'ottima notizia, vuol dire che il cuore è super allenato, come diceva il Confalonieri. Ogni tanto frequenze esageratamente basse vanno segnalate al medico, perché può darsi che ci sia un qualche difettino nei meccanismi che fanno accelerare o frenare il numero di battiti. Sì. La cosa che poi condiziona di più il numero di battiti è quanto ossigeno viene consumato dal nostro corpo in quel momento. Quindi è la domanda che, lo dico a voi che siete economisti, che condiziona l'offerta. Se io corro, ho bisogno che ai miei muscoli arrivi tanto ossigeno, il cuore riceve il segnale, dice fammi arrivare ossigeno, batte più in fretta, sì, e si spreme ancora di più, e quindi il consumo d'ossigeno può far aumentare i battiti, non solo durante lo sforzo, ma ci sono alcune condizioni, vi segnalo possibili, sì, problemi, che non so, mettiamo la tiroide, funziona troppo, allora il mio battito anche di notte quando dormo rimane alto, mentre invece tutti sanno che di notte il cuore rallenta e anche lui si riposa, sì, mentre noi dormiamo. Quindi anomalie nel numero dei battiti a riposo, se sono consistenti, vanno segnalate senza particolare preoccupazione, sì, al proprio medico. Posso fare un commento sull'intervista che avete fatto al vostro ospite sugli uffici del futuro? Sì. Guardi, mentre lui parlava, sentiva che parlava di benessere psicofisico. La ragione per cui, soprattutto tra i 45 e i 65 anni, i cittadini dicono non ce la faccio a fare esercizio anche se vorrei, è perché non ho tempo. Ma perché chi progetta uffici non progetta anche un'annessa palestra? Adesso non so se questa è una provocazione. Sì. Perché se la ragione per cui la popolazione non fa esercizio è che non ha tempo perché lavoro tutto il giorno, non sarebbe male avere questa opzione. Capisco che è una cosa un po' di lusso, ma mi creda, no, si porterebbe, certo, molto si... di più, bravo, in aggiustare infarti che nel costruire campi o all'aperto. Ecco, poi quanto ci vorrà per una palestra, dottor Confalonieri? Due attrezzini, tre ciclette, eccetera? Pochissimo. E noi... Per esempio noi, è brutto parlare sempre dell'estero, ma in Svizzera stiamo allestendo un sacco di fitness corner aziendali proprio perché hanno fatto un calcolo dei costi in prospettiva. Hanno visto che è conveniente per la salute del cittadino e anche per quella dell'azienda. Ecco, quindi se l'impiegato non riesce ad andare in palestra, è la palestra che va a trovare l'impiegato. E io volevo, abbiamo moltissimi ascoltatori in linea, io però vorrei leggerle un sms di Stefano che ci scrive: la regola di lavorare al percentuale della frequenza massima è valida? 54 anni, posso lavorare anche a 155? Allora, mi una sembra regola... molto tecnica questa no, cosa. No, è una regola relativamente valida. È importante sapere la frequenza cardiaca massima teorica per i lavori massimali, per gli atleti, per chi ha grossi obiettivi. Sì. Però riguarda pochi, credo, dei nostri ascoltatori. Sarebbe molto più importante, oggi abbiamo parlato non a caso di frequenza cardiaca a riposo, stabilire l'intensità del nostro esercizio proprio in funzione della frequenza cardiaca a riposo. Per esempio, un'intensità ideale per il nostro benessere, per allenare in modo adeguato un cuore anche non particolarmente atletico predisposto, è un'intensità che possiamo calcolare aumentando del 50% la nostra frequenza cardiaca a riposo. Cercherò di essere ancora più chiaro. Sì, se io ho una frequenza, sa che sta parlando con me. Se allora, io ho una frequenza cardiaca a riposo di 60, okay, un lavoro ideale è un lavoro intorno ai 90 di frequenza. Ecco, così mi piace. 60 più la metà di 60 che è 30, 60 più 30 uguale 90. E fin qua se ci ho siamo. Invece un'altra frequenza cardiaca a riposo assolutamente nella norma, 80, la mia frequenza cardiaca ideale di lavoro diventa 80 più la metà di 80 che è 40 uguale 120. Vai. È importante perché voi vedete come in due situazioni che sono assolutamente fisiologiche l'intensità del lavoro che io vado a consigliare è molto diversa, perché è diverso dire di lavorare a 90 o di lavorare a 120. Allora Luca da Torino, buongiorno. Luca? Buongiorno. Sì. Eccomi qua. Eccola. Rapidamente, perché abbiamo Domenico, Giovanni, Walter, io vorrei rispondere a tanti ascoltatori. Un po' particolare, io ho 27 anni che gioco a calcio in porta, è un ruolo molto particolare perché in settimana ci si allena molto fisicamente e poi in realtà la domenica diventa un lavoro fisico molto relativo, in realtà uno stress più che altro a livello diciamo psicologico. E certo, no? Perché vuole vincere, poi il portiere allora, delle responsabilità. Due stagioni fa, ad esempio, mi è capitato solo per alcune partite, però sì, mi è rimasto Luca, impresso. Arriviamo al dunque. Tachicardia, ma solo durante la partita, cioè la domenica, qualche minuto di tachicardia, in settimana correvo come un dannato, non capitava niente. Assolutamente niente. Professor Magrini, la tachicardia dell'emozione, quella adrenalina, che si prova anche quando si vede l'amorosa, l'adrenalina. Sì, esatto, quella è adrenalina. Io so che stare in porta è stressante, perché ci sono delle fasi di attesa in cui uno... E può darsi che questa adrenalina vada bene nel momento in cui uno poi deve fare un balzo per pesare la palla. Sì. Non mi preoccuperei. Bene. Allora noi possiamo andare a Milano, anzi stare a Milano con Domenico. Buongiorno. Buongiorno signora. Volevo fare una domanda al professor Negrini. Magrini. Magrini. Dunque, io sono un cardiopatico, 2 bypass, 2 stent. Sì. La mia frequenza cardiaca a riposo è 55-60. Sì. Oltre a camminare a passo moderato, eccetera, eccetera. Se posso fare un po' di ginnastica, e che livello di frequenza cardiaca dovrei raggiungere? Grazie. Grazie a lei Domenico. Professor Magrini, qua è una sorta di riabilitazione, l'abbiamo accennato questo concetto, quando il cuore si è ammalato, ha avuto dei problemi, può ritornare, e il professor Magrini ce l'ha spiegato bene, a rimettersi in forma con alcune attenzioni, quindi con consigli mirati. Professore. La risposta è sì, è utile fare esercizio. Per sapere quanto, è utilissimo fare una cosa che si chiama elettrocardiogramma da sforzo, cioè un cardiologo valuta durante una pedalata con un cicloergometro oppure una corsa, sai, sul tapirurano, quanto più in fretta batte il suo cuore, tenendo conto che probabilmente lei sta prendendo anche una serie di medicine avendo avuto questi interventi sulle coronarie. Allora il programma nel caso suo va personalizzato, bisogna vedere che medicine prende, di quanti battiti aumenta il suo cuore, se l'elettrocardiogramma si comporta bene durante l'esercizio e se la pressione sale in modo appropriato o no. E quindi il programma è un po' personalizzato. Però sì, si può fare attività fisica a condizione che sia personalizzata e dopo questa indagine, questo esame. Andiamo a Pesaro. Walter, buongiorno. Deve spegnere, c'è un eco. No, non è mio. Buongiorno Walter. Ecco. 59 anni, mai avuto problemi rilevanti, però nel tempo si stanno aggiungendo sempre qualche campanellino d'allarme. Ho essere ansioso, vene varicose, alzarmi il mattino alle 5 per urinare, pressione leggermente alta. Ultimamente si sono aggiunti alcuni problemi, geloni alle mani da 2 anni, e un po' di fiatone, difficoltà respiratoria, ma forse dipende anche un po' dal naso chiuso, e anche qualche segno dei calzini nelle gambe. Sì. Che potrebbe essere. Guardi Walter, che lei deve sentirmi lunedì. Io Walter le darei appuntamento alle 11 lunedì, perché lei mi dice i calzini, l'elastico, mi fornisce tanti spunti, e parleremo proprio di gambe, di circolazione. Quindi dottor Confalonieri, vuole aggiungere qualcosa per Walter, un'indicazione? Io gli direi di farsi Mi sembrano tutti problemi abbastanza diversificati, gran parte legati probabilmente a una circolazione periferica migliorabile. L'unica cosa, un po' di fiatone, soprattutto all'inizio dell'attività, non è un problema. Noi dobbiamo adeguarci all'aumentata richiesta di ossigeno di cui parlava il professor Magrini e dare il tempo al nostro apparato cardiovascolare di adeguarsi, quindi iniziare lentamente. Aiuto, non riesco a sentirmi il battito, ci scrive Ciro. Però, insomma, se scrive vuol dire che il cuore batte. Diamo subito una mano a Luigi che ci scrive: con frequenza normale tra i 50 e i 55, a 80 battiti non riesco a fare nessuna attività. Cosa faccio? Vedi che abbiamo degli ascoltatori ormai che sono quasi più avanti dei nostri consigli. Questo è un problema che può nascere rispetto a quell'indicazione di massima che ho dato prima. Nel senso che indubbiamente io parlavo di persone relativamente poco allenate o non allenate, e quindi con frequenze in partenza tra i 60 e i 90. Qua siamo con un soggetto che o è naturalmente con un cuore allenato o è di fatto allenato, per cui per queste persone è importante ovviamente incrementare un po' di più rispetto a quel 50% di cui parlavo. Quindi mi dà modo di specificare ancora meglio il consiglio. Se la nostra frequenza tende a essere alta, cioè tende a essere verso gli 80, possiamo andare anche un po' oltre, stare un po' più bassi rispetto al 50% di incremento. Se invece è molto bassa, dovremmo ovviamente aumentare un po', largheggiare un pochino di più. Esatto. Giovanni, buongiorno, ci chiama da Roma. Buongiorno signori, un un saluto a Gonzalo Nieri, perché ci siamo conosciuti un po' di anni fa. Io praticamente sono un ex triatleta. Sì. Praticamente dall'83, dal primo triathlon, ho gareggiato per circa 20 anni. Poi ho smesso di fare sport, così, perché mi ero stufato. E dall'anno scorso praticamente ho iniziato ad avere dei problemi. Sì. L'anno scorso ho avuto una fibrillazione atriale. Sì. Sono stato ricoverato, praticamente poi il cardiologo mi ha iniziato a far prendere un farmaco tipo l'aspirinetta. Però vorrei riprendere a fare qualche cosa, ma mi capita spesso che appena inizio a camminare ho delle estrasistoli. Sì. Delle estrasistoli che sono violente. Con dei dolorini. Guardi Giovanni, noi non la sentiamo male come audio, ma penso che possiamo avere tutti gli elementi, professor Magrini, abbiamo tutte le indicazioni per poter dare un consiglio a Giovanni, ma in generale alle persone che si ritrovano un po' nella condizione di Giovanni, fibrillazione atriale, il desiderio e anche l'invito da parte del medico a riprendere a fare l'attività fisica, ma ci sono dei segnali, dei sintomi che il cuore dà quasi per dire ma non sono tanto d'accordo. Che cosa si fa? Allora, uno, mi piacerebbe coinvolgere Gonzalo Nieri, se è un suo amico, però sarò rapidissimo. Nel caso di questo signore, come in quello che ci ha telefonato prima, bisogna fare dei programmi personalizzati, quindi è bene che lui abbia una registrazione holter, con quelle macchinette che si attaccano, insomma, di 24 ore, è vero? Ma più che sì, anche 24 ore, ma insomma, per riuscire a cogliere queste sensazioni di battito irregolare che lui ha di tanto in tanto e che lui collega all'esercizio. Allora, è utile vedere quanto stabile è l'attività elettrica del suo cuore, cioè se la sua centralina risponde bene o no ai segnali. Con questo si può fare un programma mirato e direi che la fibrillazione a volte non ha un rapporto, fibrillazione atriale ovviamente, con l'esercizio, ma addirittura può venire curata dall'esercizio. Naturalmente va personalizzata la cosa, bisogna fare anche un ecocardiogramma e essere sicuro che la sua centralina, che sta nell'atrio, che è la parte sopra il cuore, sia a posto, l'atrio non sia dilatato, insomma queste robe qua. Dottor Gonfalonieri, lei che il nostro ascoltatore lo conosceva, poteva già dire qualcosa. Sì, innanzitutto mi auguro non sia stata la causa di questa fibrillazione atriale. E comunque volevo cogliere un aspetto importante di quanto sottolineato dal professor Magrini, e cioè, ecco, di fronte a queste problematiche che possono essere importanti e serie come la fibrillazione atriale, ma che il più delle volte non controindicano in assoluto l'attività sportiva, anzi possono trarne un beneficio, adesso l'accoppiata holter ecografia è veramente dirimente, ci consiglia di capire se, quanto sport fare e a che intensità farlo attraverso l'elettrocardiogramma da sforzo. Quindi, per tornare a quanto si diceva all'inizio, non spaventatevi se pensate che il vostro cuore sia inadeguato, studiatelo bene e probabilmente ci sarà un programma su misura anche per il vostro cuore. Professor Magrini, io la ringrazio per essere stato con noi. Grazie a voi. Ci ha fatto veramente capire perché muoversi fa bene al cuore, e speriamo che i dati quando salite poi sul Duomo battiamo qualcuno, magari gli svizzeri, no? I tedeschi, i francesi, che abbiamo che speriamo di guadagnare una frequenza migliore. Grazie professore. Grazie a voi, arrivederci. E adesso amici, aprite l'agenda. Domenica 17 aprile è la giornata mondiale dell'emofilia. Stiamo parlando di una rara patologia della coagulazione caratterizzata dalla carenza, che può essere totale o parziale, di una delle proteine che determinano la formazione del coagulo di sangue. Per questa ragione, chi soffre di questa malattia ha delle emorragie più o meno gravi, spontanee o post-traumatiche. Allora, la giornata, noi le ricordiamo sempre e lo facciamo anche volentieri per l'emofilia, è un'occasione per parlare di questa malattia di cui molti non conoscono neppure l'esistenza e su cui ci sono ancora tanti pregiudizi che non aiutano certo chi ne soffre. In linea con noi abbiamo il piacere di avere il professor Pier Mannuccio Mannucci, ordinario di medicina interna dell'Università dell'Università Statale di Milano e direttore del Centro Emofilia Angelo Bianchi Bonomi. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno. Allora professore, l'emofilia è una malattia, si legge, ereditaria, che colpisce principalmente il sesso maschile. Ci vuole spiegare come si eredita? Viene trasmessa da donne portatrici che sono portatrici sane e che non hanno nessuna alterazione nella grande maggior parte dei casi. Possono nascere bambini con emofilia anche da genitori che sono perfettamente sani e non sono portatori? Sì, possono, questo può succedere perché c'è un tasso elevato di mutazioni spontanee e quindi anche una persona, una coppia dove non c'è nessun caso di emofilia nella famiglia può sviluppare questo disturbo. Naturalmente, per fortuna, ciò accade raramente. Molto raramente. Ma professore, è possibile identificare quindi le portatrici sane della malattia? Parliamo al femminile, naturalmente. Sì, si può con le tecniche genetiche, è una possibilità. Naturalmente la cosa va fatta soltanto nelle famiglie dove ci sono dei casi di emofilia. Chiaro che non si può, anche se ci sono queste mutazioni spontanee, fare uno screening generale per una malattia pur sempre molto rara. Senta, ma se uno non ha casi in famiglia potrebbe in teoria essere una portatrice sana. Ci sono dei sintomi, professore, che potrebbero indurre il sospetto? No, alcune portatrici hanno dei livelli di questi fattori della coagulazione che pur non essendo bassissimi sono un po' ridotti e quindi possono avere una tendenza all'emorragia, ma questo succede abbastanza raramente. Di solito le madri dei nostri assistiti emofilici stanno perfettamente bene e sono perfettamente sane. Oggi qual è l'aspettativa di vita, professore, di un paziente, e parliamo anche di qualità della vita? L'aspettativa di vita è eccellente con gli sviluppi della terapia che ci sono stati negli anni 70, 80 e 90 e anche nel primo decennio del terzo millennio. L'emofilico italiano ha un'aspettativa di vita che è praticamente uguale a quella del maschio italiano, sì, cioè 78 anni. E quindi da questo punto di vista, fra le varie, le più frequenti malattie genetiche, l'emofilia è indubbiamente quella che è messo meglio rispetto anche a malattie per cui monogeniche più complesse, progressi come certo, la distrofia muscolare, la talassemia e la fibrosi cistica. Dal punto di vista della qualità di vita, naturalmente, anche se possono essere trattati in maniera eccellente, il fatto di avere questo disturbo, di doversi fare queste frequenti infusioni dei fattori mancanti per via endovenosa, altera la qualità di vita, anche certo, se in maniera non determinante. Professore, lei qualche anno fa, in un articolo pubblicato sul New England, aveva scritto che l'emofilia si sarebbe potuta curare con la terapia genica. È passato qualche anno, pochi, ma lei ci crede ancora e si sente di fare una previsione temporale? Sì, ci credo ancora, anche se a quei tempi avevo detto che ci sarebbe stata la guarigione dell'emofilia attraverso la terapia genica nel primo decennio del terzo millennio, che purtroppo è passato. La previsione non era poi tanto assurda, poi ci sono stati dei problemi intercorrenti che non sto però a menzionare. Adesso però hanno ripreso gli studi, le sperimentazioni, fra l'altro alcune si verificano anche da noi in Italia, e io quindi, con l'ottimismo della volontà che mi contraddistingue, dico che ce la faremo. Nel prossimo decennio ce la faremo. Allora, mi sono sbagliata perché ho detto domenica 17, invece è sabato 17 aprile, perdono, giornata mondiale dell'emofilia. Grazie per la precisazione, mi hanno aiutato come sempre i miei ascoltatori, che saluto e ringrazio, a cui do appuntamento domani a mezzogiorno per Questa casa non è un albergo. Grazie al professor Mannucci, grazie al dottor Confalonieri. Buona giornata.